GR24, il sole 24 ore. Meno 21 gradi in Liguria, il freddo fa una nuova vittima in Brianza. In Puglia è difficile la circolazione e anche la Sicilia è sotto la neve. Caso Unipol, Berlusconi rinviato a giudizio, lui si difende, mai sentita l'intercettazione Fassino consorte. L'articolo 18, la rovina dell'Italia, oggi la polemica arriva dal Wall Street Journal. 400 i bambini uccisi in Siria negli scontri, l'allarme dell'UNICEF, richiamato l'ambasciatore italiano a Damasco. Buongiorno dalla redazione, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Rinviato dunque a giudizio, come avete sentito, Silvio Berlusconi per la vicenda Unipol. La questione è quella della nota intercettazione tra Fassino e consorte, ma c'è anche un'altra notizia degli ultimi minuti. Il Consiglio dei Ministri è stato convocato infatti alle 16.30 di questo pomeriggio a Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio annuncia comunicazioni. Ne parleremo tra poco, perché intanto però ancora molti sono i disagi per il freddo e per la neve. C'è stata anche una nuova vittima e in alcune regioni è ancora davvero difficile muoversi. Allora facciamo ancora il punto con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. È così, ma il tempo non dà tregua, record di temperature al nord. In Liguria il termometro è sceso fino a meno 21 gradi, a Genova a causa del freddo oltre 40.000 persone sono rimaste senza acqua. Nevica in Emilia-Romagna, Veneto, Marche, ma anche al sud, in Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Sulla statale tra Basilicata e Puglia ha dovuto intervenire l'esercito per liberare la strada dalla neve, mentre la circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee che collegano la Puglia con Campania e Basilicata. Bufera in Irpinia a basse quote, 9 comuni sono isolati, anche la Sicilia è sotto la neve, con le strade chiuse al transito nelle aree montane, mezzi rimasti bloccati su diverse arterie. Situazione critica in Abruzzo, nelle Marche, dove molti comuni hanno chiesto l'aiuto all'esercito, ed scoppia il caso degli aiuti a pagamento. Sentiamo il sindaco di Ancona, Fiorillo Gramillano. Mi è stato chiesto se c'era disponibilità da parte dell'amministrazione comunale al pagamento. Questo mi ha sorpreso, perché effettivamente non sapevo che si dovesse contribuire al pagamento. Ora, c'è da dire che sostanzialmente rispetto ai privati penso che le tariffe siano anche più limitate. Difatti mi è sembrato un pochino strano. E nel Lazio sono oltre 22.000 le utenze senza energia, 7.000 nella provincia di Roma, una decina i comuni isolati in Ciociaria. Poco fa abbiamo sentito il sindaco di Fiuggi, Ernesto Persini. Ci sono ancora famiglie senza elettricità, meno di ieri, quelle che ancora non la hanno, come quelle che l'hanno recuperata per la giornata di ieri e per stanotte, sono ospitate in alberghi che il comune ha messo a disposizione. A ieri erano 230 utenze ancora distaccate, oggi non lo sappiamo, vedremo stasera, ma insomma almeno credo una metà dovrebbe essere stata recuperata. C'è stata una grossa difficoltà di coordinamento con la provincia, che ha latitato in maniera veramente indecorosa in questi, soprattutto nei primi giorni. Ecco, situazione particolarmente critica anche in Puglia, ci sono alcuni automobilisti che sono stati evacuati in elicottero, parlavamo prima infatti di strade che sono bloccate dalla neve, poi ci sono ancora vittime in provincia di Monza, una donna senza tetto è stata trovata priva di vita, probabilmente per assideramento, questa è l'ultima vittima. Invece a Roma la situazione sta tornando alla normalità, domani riaprono le scuole, venerdì dice il sindaco Alemanno potrebbe invece tornare la neve. Infine, per il secondo giorno consecutivo la produzione nello stabilimento di Melfi della Fiat rimarrà bloccata. Per ora è tutto. Grazie e naturalmente aggiornamenti ancora nelle prossime edizioni di GR24. Da oggi intanto potrebbero scattare in qualunque momento anche i distacchi programmati alle aziende per far fronte all'emergenza gas, dopo che ieri è stato deciso il via libera al piano di emergenza, una situazione dovuta non solo al gran freddo ma anche a due situazioni difficili: il gasdotto della Russia che perde colpi e il rigassificatore della dell'Alto Adriatico bloccato dal maltempo. Una situazione complicata per l'Italia perché dipendiamo sempre più dall'estero. E allora quanto pesa questa situazione? Simone Spezia ne ha parlato con Marzio Galeotti, professore di economia dell'ambiente e dell'energia all'Università di Milano. A più lungo andare la politica principale significa affrancarsi dalle fonti fossili anche per ragioni di impatto climatico, quindi di emissioni, e quindi un incremento delle fonti rinnovabili che non sembra avere, diciamo, ammettere alternative. Dall'altra, in tempi più ravvicinati si tratta di diversificare le fonti di approvvigionamento, come noi sappiamo, e quindi per quanto riguarda il gas io vedrei essenzialmente due strade. Una, aumentare il numero di rigassificatori, perché ti permettono maggiore flessibilità rispetto ai tubi che non si costituiscono dall'oggi al domani, ed è difficile pensare a nuovi tubi che arrivino in Italia. Mentre qualche rigassificatore in più sarebbe auspicabile, richiede tempi di costruzione molto limitati e permetterebbe di trarre vantaggio dai prezzi spot del gas, che come sappiamo sono anche di un 20% inferiori a quelli impliciti nei contratti take or pay che noi abbiamo contratto con soprattutto la Russia e in generale i nostri fornitori. Poi diverso è il discorso dell'emergenza, come quella che stiamo vivendo oggi. Anche un discorso sugli stoccaggi andrebbe fatto, perché una politica di stoccaggi che permettesse di aumentarne la capacità, di aumentarne la quantità in previsioni di emergenze future potrebbe essere ragionevole. E voltiamo pagina, dicevamo, Silvio Berlusconi rinviato nuovamente a giudizio. Rivelazione del segreto d'ufficio. Con questa accusa Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in relazione alla fuga di notizie sull'ormai famosa intercettazione "Abbiamo una banca". Intercettazione tra l'allora leader dei DS Piero Fassino e l'ex numero uno di Unipol Giovanni Consorte, agli atti dell'inchiesta sulla tentata scalata a BNL da parte di Unipol, pubblicata dal quotidiano Il Giornale. Quello che si aprirà davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano il prossimo 15 marzo è il quarto processo a Milano per l'ex premier. Si aggiunge a quelli sui casi Mills, diritti TV Mediaset e Ruby. Ormai abbiamo perso il conto, ha commentato il legale di Berlusconi Niccolò Ghedini, aggiungendo: questo è l'unico processo in Italia per questo reato. Interrogato questa mattina Silvio Berlusconi davanti al giudice dell'udienza preliminare ha sostenuto di non aver mai ascoltato quell'intercettazione, altrimenti me la sarei ricordata, ha detto, né di aver mai dato ordini per farla pubblicare. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poco è stato fatto in Italia contro la corruzione per regolare il finanziamento ai partiti, così intanto parla Gherardo Colombo, ex magistrato, a pochi giorni dal 20° anniversario dell'avvio dell'inchiesta Mani Pulite, il prossimo 17 febbraio, giorno dell'arresto di Mario Chiesa. Una tesi contenuta nel libro Farla Franca, la legge è uguale per tutti. Sentiamo Colombo al microfono sempre di Maria Luisa Pezzali. Non vedo in questo paese delle misure che servano a rendere più difficile la corruzione o più facile la scoperta della corruzione. Vedo invece che frequentemente succede con una certa frequenza che il rilievo penale di un comportamento non abbia poi dei seguiti sotto il profilo dell'esercizio di funzioni, anche di funzioni pubbliche. Il finanziamento dei partiti, le cronache di questi giorni lo testimoniano, è un nodo irrisolto. Che cosa non è stato fatto di quello che voi avete portato alla luce? Poteva essere un ottimo punto di partenza per introdurre quelle misure, quelle modifiche, insomma operare in modo che si andasse verso un cambiamento del comune modo di pensare. Invece è successo quasi il contrario. Discussione ancora aperta sull'articolo 18 e questa volta interviene anche il Wall Street Journal. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così. Interpretazione destinata a suscitare forti polemiche, quella del Wall Street Journal, sul mercato del lavoro del nostro paese e sulle difficoltà che ci sono nel far muovere il prodotto interno lordo. La più grande minaccia alla crescita economica dell'Italia non è il debito pubblico, ma l'articolo 18, si legge in un editoriale del prestigioso quotidiano economico-finanziario dal titolo Roma contro i sindacati. Nell'articolo si sottolinea che questa norma è sottovalutata dalla stampa internazionale quando si affronta il tema della scarsa crescita italiana. L'articolo 18 viene spiegato, è un relitto degli anni 70 che rende impossibile licenziare anche il più incompetente dei dipendenti ed in modo perverso causa ciò che dovrebbe prevenire la disoccupazione. Questa dunque è la tesi del Wall Street Journal, che va ad aggiungersi alle discusse affermazioni dei ministri Cancellieri e Fornero. La prima, lo ricordiamo, sui giovani di fatto mammoni, la seconda sul posto fisso come un'illusione, frasi che registrano ancora oggi tantissimi commenti sui Twitter e sulla rete in generale. Tra i bersagli di oggi in particolare c'è la figlia del ministro del welfare, si tratta di Silvia De Aglio, figlia della Fornero, e dell'economista e giornalista Mario De Aglio. Di posti fissi Silvia ne avrebbe due, entrambi a Torino, e quindi scrive qualcuno vicino a mamma e papà. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E poco fa è arrivata una nota di Palazzo Chigi. Il Consiglio dei Ministri è convocato oggi alle 16.30 per comunicazioni, si legge, del Presidente del Consiglio. E intanto questa mattina a Roma partono gli incontri per riformare la legge elettorale. Sarà dialogo tra PDL e PD. Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, al via gli incontri per modificare la legge elettorale, il cosiddetto Porcellum. Il PDL inizia con la Lega Nord, ieri Silvio Berlusconi ha incontrato Umberto Bossi ad Arcore, poi gli incontri ci saranno invece separatamente con PD, Terzo Polo e SEL. Gli schieramenti appaiono invertiti, da una parte PDL e PD, i partiti maggiori dall'altra Lega e Terzo Polo, diffidenti ad una riforma che potrebbe ridurre il peso delle forze minori in Parlamento. Il PDL insiste però su una riforma bipolare, cioè capace di portare gli elettori a scegliere due alleanze contrapposte e al reintegro del voto di preferenza. Da Futuro e Libertà, Benedetto Della Vedova avverte, sbaglia chi vuole fare la legge elettorale contro il Terzo Polo, mentre Fabrizio Cecchitto PDL contrattacca, no a pregiudiziali da Lega e Terzo Polo, fino ad oggi al bipolarismo hanno partecipato anche queste forze. Infine dall'Italia dei Valori Antonio Di Pietro scrive su Twitter, la legge elettorale si deve scrivere in modo trasparente, senza sotterfugi, in una commissione parlamentare e non di nascosto né sottoscala. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie, c'è una notizia dell'ultima ora da segnalare. Un palazzo di 6 piani in via Tarcento a Roma, in zona Tor Pignattara, presenta chiari segni di cedimento strutturale. Sul posto gli equipaggi della polizia, dopo che numerosi cittadini hanno segnalato che si erano aperte crepe molto visibili sul marciapiede davanti il locale garage. Lo stabile ospita circa 30 famiglie. L'evacuazione è in corso. E alle 13:16 minuti le notizie di oggi di GR24, meno 21 gradi in Liguria, il freddo fa due nuove vittime, una donna in Brianza, un uomo trovato morto sulle alture di Genova. In Puglia, come sentivate, difficile la circolazione, alcuni automobilisti evacuati anche con gli elicotteri. Caso Unipol, Berlusconi rinviato a giudizio, lui si difende, mai sentita l'intercettazione, Fassino consorte. L'articolo 18, la rovina dell'Italia, oggi la polemica arriva dal Wall Street Journal alle 16.30, convocato il Consiglio dei Ministri. E noi ripartiamo con dei dati economici e col drastico e sorprendente calo della produzione industriale tedesca a dicembre, ha segnato infatti una flessione del 2,9% rispetto a novembre contro le stime per un dato invariato. Si tratta della peggiore contrazione da 3 anni a questa parte. Su base annua l'indice corretto per effetto di calendario ha registrato una crescita dello 0,9%. E gli occhi sono puntati però in queste ore in Europa sulla Grecia, una Grecia a rischio default che affronta oggi un nuovo sciopero generale di 24 ore contro le misure per l'austerity. Ci sarà oggi una nuova riunione dei 3 partiti che sostengono il governo Papademos per approvare il promemoria della Troika, condizione necessaria per il via libera alla concessione del secondo pacchetto di aiuti. Allora è davvero l'ultima occasione per Atene, cosa dobbiamo aspettarci oggi? Io lo chiedo e saluto il collega del Sole 24 Ore, Vittorio Darold. Buongiorno a voi. Effettivamente la situazione è, nei termini che appunto hai descritto, ma più in generale si sta scontrando una posizione in Europa tra due diverse atteggiamenti. Il primo, chi crede in una ristrutturazione, in un default, come ormai lo abbiamo chiamato, perché questo ormai si tratta, ma una parte vuole un default o una ristrutturazione ordinata, un altro invece punta su quella disordinata. Ad esempio la signora Kroes, che è l'attuale commissario europeo all'economia digitale ed ex commissario alla concorrenza, oggi durante una riunione ha detto: beh, insomma, se la Grecia dovesse uscire dall'euro non sarebbe un disastro. Immediatamente il portavoce dell'Unione Europea ha subito detto: no, la posizione dell'Unione Europea è che la Grecia resti nell'Europa. La Germania vuole invece fare una ristrutturazione ordinata, cioè che prevede una perdita del cosiddetto PSI, cioè il private sector involvement, cioè le banche che hanno acquistato titoli greci dovrebbero perdere circa 100 miliardi dei 200 che ne hanno investito, il 50%. Dopodiché con uno swap avrebbero altri titoli però più solidi, cioè garantiti dall'Unione Europea. Le perdite sarebbero complessivamente del 70%. In cambio vogliono tagli alle spese, i famosi meno 15.000 dipendenti pubblici, e nello stesso tempo aumentare la competitività di Atene. Come? Dato che non può svalutare, riducendo i salari del 20%, i salari minimi del 20%, e in qualche modo riducendo anche la tredicesima mensilità, cioè rendendo più convenienti investire in Grecia. Tutto questo naturalmente con un'ulteriore limitazione: gli aiuti che l'Unione Europea dovrebbe dare ad Atene sarebbero inseriti in un fondo speciale che verrebbero utilizzati soltanto per pagare gli interessi. E quindi è un commissariamento di Atene. Vittorio, in tutto questo quadro stamattina però è andata bene l'asta dei titoli di Stato greco a 6 mesi. Chi ha comprato? Ancora la BCE, ancora l'Europa che sostiene Atene? O cosa è successo secondo te? Sì, i compratori sono con molta probabilità ancora una volta Mario Draghi, inteso come governatore della Banca Centrale, oppure le stesse banche greche, che sono quelle che più degli altri sostengono in qualche modo il loro governo, hanno una moral suasion ad acquistare se non ci sono altri compratori, diciamo così, queste quindi acque, comunque che sono il sostegno sempre per ora andato c'è stato. Bene. Assolutamente, il problema è semplicemente quello di arrivare a un default ordinato, ed è questa la vera scommessa. Se non ci fosse, la prossima problematica, perché molti commentatori dicono: bah, ormai la Grecia viene data per un default ormai acquisito. Niente di più falso, perché se ci fosse un default disordinato, la prossima preda della speculazione sarebbe il Portogallo, e subito dopo il Portogallo sarebbe la Spagna. Abbiamo tempo solo per una battuta: è davvero l'ultima occasione, come si è detto ieri? No, non penso proprio, perché questi accordi si fanno sempre alla 23esima ora, come dicono gli americani, cioè loro sanno che fino al 20 marzo non scadono i 14 miliardi di debito, e fino a quella data sanno che tutte le deadline sono posticipabili, e quindi sono dei grandi negoziatori. Arriveremo fino lì. Grazie a Vittorio Darold. E noi restiamo all'estero per andare invece in Siria. Oltre 400 bambini uccisi dallo scoppio delle violenze in marzo fino a fine gennaio. Sono dati impressionanti quelli arrivati oggi dall'UNICEF a Ginevra. Sempre secondo informazioni di organizzazioni dei diritti umani locali, oltre 400 minori sarebbero in carcere. L'Italia ha richiamato oggi l'ambasciatore a Damasco per consultazioni, e oggi è partita la missione russa per fermare le violenze. Per convincere Assad a farsi da parte, la Russia, che con la Cina aveva messo il veto alla risoluzione ONU contro la Siria, ha mandato oggi a Damasco il ministro degli esteri Lavrov, accompagnato dal capo dei servizi segreti. È un tentativo complicato, anche perché l'uscita di scena di Bashar deve essere concordata insieme all'Iran, storico alleato del regime alawita. Mentre le truppe governative bombardano con accanimento la roccaforte ribelle di Homs, la diplomazia russa prova a giocarsi la carta di una mediazione, ma se falliscono i negoziati, la Siria, linea rossa di Mosca, di Teheran, quasi del Medio Oriente, rischia di scivolare in una guerra civile per procura, dove l'Occidente, la Turchia e le monarchie arabe sosterranno più o meno direttamente l'opposizione armata. Così in Medio Oriente, ancora prima della guerra contro l'Iran, ventilata dagli israeliani per bloccarne i piani nucleari, ne avremo un'altra già in corso ai confini dello Stato ebraico, del Libano e dell'Iraq. Una miscela di destabilizzazione che solo con ottimismo si può definire esplosiva. Le Maldive hanno da oggi un nuovo presidente, Mohamed Vaed, fino a poche ore fa vicepresidente, ha giurato dopo le dimissioni di Mohamed Nasheed, dimissioni volute dalle pressioni delle forze armate. La polizia maldiviana è in agitazione da giorni, ha occupato anche la sede della radio TV nazionale, mentre l'esercito ha sparato proiettili di gomma contro manifestanti. Il portavoce dei militari ha fatto sapere che non è un colpo di Stato, ma ha detto: abbiamo consigliato al presidente di lasciare. Il console italiano intanto rassicura: gli italiani, per lo più in vacanza, stanno tutti bene. Torniamo in Italia. Un'evasione da 14 milioni di euro è stata scoperta oggi dalla Guardia di Finanza a Roma. Al centro dell'indagine è una delle più note cliniche private della capitale, Villa Tuscolana. La struttura non aveva mai dichiarato nulla e non aveva mai versato imposte, nonostante gli ingenti rimborsi da parte di ASL e del Comune. E ora la nostra consueta rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Nel paese sommerso capita anche che verdure e frutta vengano vendute come made in Italy, ma in realtà sono importate e grazie a diversi passaggi tra aziende diventano di produzione nazionale. Si gonfiano i prezzi a scapito dei produttori locali e i guadagni realizzati vengono nascosti al fisco mediante fatture false. È successo a un mercato ortofrutticolo siciliano dove sono stati scoperti 3 operatori che hanno commercializzato oltre 27 tonnellate di pomodorini. Come spiega il colonnello Francesco Fallica della Guardia di Finanza di Ragusa. Alcuni soggetti si sono posizionati anche in Tunisia, hanno cominciato a fare produzione di ortofrutta in Tunisia e lo importano nelle società vittoriesi. In queste società vittoriesi, con il tempo e con i passaggi di fatture, il pomodorino che inizialmente è tunisino perché così sbarca a Trapani o a Palermo, col tempo diventa pomodorino italiano. Nel senso che mentre inizialmente viene immessa sulla fattura l'indicazione made in Tunis, con il tempo questa indicazione non viene più inserita, quindi la grande distribuzione in buona fede acquistava pensando di comprare prodotto locale. L'evasione nel caso dei pomodorini è stata subito evidente. Diversi milioni di euro di ricavi non dichiarati e quindi di dichiarazione infedele, una cifra superiore ai 2 milioni di euro. Di qui si sono anche scoperti altri redditi non dichiarati per 18 milioni di euro e 74 responsabili per reati di frode in commercio, truffa, turbativa d'asta, abuso d'ufficio, peculato, favoreggiamento, reale, falso e bancarotta fraudolenta. E chi più ne ha, più ne metta. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un aggiornamento sulla situazione del maltempo, perché riapre la polemica. Il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli sta parlando nel corso di un'audizione alla Commissione Lavori Pubblici del Senato. Per tutto il giorno di sabato sono stato messo alla berlina su tutti gli spazi informativi, ha detto, chiedo rispetto per la Protezione Civile. Giovedì il ministro dell'Interno intanto riferirà in Parlamento. E ora è il momento per noi invece di un buon compleanno. Coca, cola, bevi la Coca-Cola che ti fa bene. 60 anni all'insegna del rock e oltre 30 milioni di dischi venduti. Nel 1981 esce Siamo solo noi, un brano definito un inno generazionale, ma è nel 1982, giusto 30 anni fa, che Vasco Rossi si affaccia sul palcoscenico di Sanremo con Vado al massimo. Da allora il rocker di Zocca non molla più la presa. L'anno dopo, nell'83, la consacrazione definitiva. Ci riprova ancora a Sanremo, dove presenta Vita spericolata, una delle sue più belle canzoni di sempre. Il festival lo snobba, ma non il pubblico. Quello stesso anno esce l'album Bollicine, che contiene anche Vita spericolata e che pochi giorni fa la rivista mensile Rolling Stone ha messo al primo posto tra i 100 dischi italiani migliori di sempre. A rendere omaggio oggi ai 60 del Blasco, il mondo del web, con una lunga maratona condotta da Red Ronnie che si concluderà a mezzanotte. Il Vasco Day sarà trasmesso su Roxy Bar TV e su centinaia di micro web TV, blog, videoblog e media locali digitali. In onda interviste, concerti dal vivo, momenti personali tra dall'archivio privato di Red Ronnie, raccolti seguendo tutta la carriera di Blasco. Le ultime parole del rocker di Zocca risalgono a venerdì scorso. Attraverso un post su Facebook, Vasco riflette sul tempo che passa e dice: non puoi pensare che le cose non possano cambiare, tutto sarà sempre un pochino diverso, niente sarà più come prima. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roberto Scaltritti in regia, Danna Migliorati, buon pomeriggio. GR24 vi aspetta alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.